dobbiamo cominciare a mettere le basi per i prossimi bandi e ci sono dei grossi cambiamenti, alcuni indotti da un decreto del ministro della fine del 21, altri diciamo scelti dalla Regione Emilia-Romagna, che giustificano la volontà insomma di comunicare il nuovo assetto. E noi in particolare siamo in una fase in cui questo decreto ci chiede di fare degli aumenti molto significativi delle borse, aumenti che sono progressivi, quindi sono più alti per gli studenti fuori sede, poi vedono gli studenti pendolari, e prevedono anche una serie di ulteriori incentivi sempre in aumento per categorie specifiche di studenti, tra cui le studentesse femmine che si iscrivono a corsi STEM, gli studenti con disabilità o gli studenti in condizioni di particolare indigenza. Questi aumenti già di per sé producono un aumento significativo del costo del diritto allo studio regionale, ma noi a questo vogliamo aggiungere un aspetto, diciamo, anche politico e di indirizzo, che è quello di rimanere sulla indicazione di dare il 100% delle borse ai beneficiari, ma anche alzare contemporaneamente la soglia ISEE utile a richiedere i benefici. Quindi noi ci prendiamo l'impegno per i prossimi 3 anni a rimanere al 100%. Vi ricordo che questa regione è al 100% da sostanzialmente da sempre, ed è stata una delle prime a fare una politica di questo tipo. 100% significa che se uno studente si iscrive in un'università dell'Emilia Romagna e ha l'ISEE tale per avere il diritto alla borsa di studio, è sicuro che la borsa di studio gli verrà dato. Questo non è un diritto che è garantito con la stessa qualità, diciamo, in tutte le regioni e in tutti gli atenei. Noi lo garantiamo sostanzialmente da sempre in tutti gli atenei della regione. E poi però la soglia per accedere a questi benefici fino ad oggi era attestata a 23.000 euro, da oggi in seguito anche all'uscita del decreto noi assumiamo come soglia la soglia massima che il decreto prevede, quindi quella più alta possibile. Non è possibile avere una soglia più alta di questa, che è 24.335,11. È scritto così nel decreto e lo trovate nei dati che vi abbiamo dato. È un curioso numero, ma abbiamo deciso di non togliere neanche gli 11 centesimi proprio perché ci pareva corretto attestarsi al valore massimo così come concepito dalla norma, insomma. Questo ci porta a una spesa molto superiore a quella dell'anno scorso. Quella dell'anno scorso era di 102 milioni annui, e quella di quest'anno, ovviamente in fase ancora ipotetica, perché noi stiamo per aprire i bandi, quindi non sappiamo quante persone faranno poi domanda. Dal punto di vista statistico abbiamo tentato delle simulazioni e ci immaginiamo un incremento di 30 milioni, quindi diciamo di quasi un terzo del budget già molto significativo che mettevamo a disposizione, a fronte di tutto questo insieme di aumentati benefici, che sono sia diciamo perché sono più alti i valori, sia perché ammettiamo più studenti all'interno del sistema dei benefici. E mi sento di dire che in questo momento devo citare anche i rettori, che non solo l'anno scorso ci hanno aiutato sostenendoci, ma insomma abbiamo ieri fatto una conferenza regionale in cui insieme abbiamo condiviso questi valori, e loro proporranno ai loro organi, perché non è una decisione monocratica, ma una decisione che devono fare passare attraverso la loro tecnostruttura, proporranno ai loro organi di allineare anche loro la no tax area regionale a questa cifra. Quindi diciamo mi pare che, come sempre, oltre al messaggio ovviamente inclusivo rispetto al diritto allo studio, di massima attrattività della regione, questi sono i due principali messaggi politici che stanno dietro a queste cifre, ci sia anche il solito messaggio di coesione e aderenza ai principi del patto per il lavoro e per il clima, per cui il sistema che si occupa di diritto allo studio, quello delle università e della regione e dell'ente regionale, cammina tutto insieme per allargare il più possibile la platea dei beneficiari rispetto a quanto diciamo il sistema delle norme ci consente.